Tempo di sport con Carlo Genta. Ciao a tutti. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie. Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Questo non ci scommetterei nemmeno la vostra di casa, non la mia, ma in dubbio che stavolta non è solito pacco nerazzurro di ritorno, non è Ronaldo con la pancia e la permanente, non è Vieri con la pancia senza permanente ma anche senza più benzina, è Ibracadabra. E dopo gli eurointerismi mi sa che siamo al tempo dei nervosismi naturalmente nerazzurri. Non so se ci sia già abbastanza materia per il quinto libro sull'Inter. Beppe Severgnini, buongiorno. Beppe Severgnini ha chiuso con eurointerismi e non ci pensa assolutamente, proprio, anzi, devo deinteristizzarmi pubblicamente, nel cuore assolutamente, però facendo un altro mestiere, caro Carlo, eviterei di scrivere altri libri sull'Inter. È vero anche che sono molto orgoglioso di quelli che ho fatto e sono contento che Ibra sia arrivato a Milano. Quindi non sono nervoso, sono proprio contento, ma lo dico sinceramente, sì. Per due motivi. Il primo, che mi piace il calcio e stiamo parlando di un grande giocatore. Bravissimo. Secondo, mi piace quello che tu cerchi di raccontare ogni volta insieme agli ascoltatori, insomma, le passioni intorno al calcio, e non c'è dubbio che noi tifosi tutti siamo dei cuori teneri, perché sentire uno che aveva la maglia nera-azzurra, poi quella bianco-nera e col rosso-nera, e ogni volta ci innamoriamo come delle ragazzine, è buffo. E per finire, perché, come ho scritto stamattina sul Corriere della Sera, io sono profondamente convinto che Ibra sostanzialmente giocherà nel Milan, ma è venuto a Milano per l'Inter. Sì, ho letto con attenzione, caro Beppe. Io peraltro condivido quanto tu scrivi, massimo rispetto per Ibra, il gigolò perfetto, fa quello per cui è pagato, ti fa vedere il paradiso, ti fa vincere gli scudetti e chi si accontenta gode, perché ti deve dare anche il cuore, ma perché? Ma non c'è dubbio, se c'è Zanetti, se c'è Del Piero, se c'è Totti, se c'era Maldini, dobbiamo stupirci di questi, cioè persone che hanno deciso di dedicare la loro carriera, per un calciatore non è lunghissima, ha deciso di dedicarlo a una squadra, a due colori, anzi, che cambiano pure i presidenti, i colleghi, calciatori, i dirigenti, gli allenatori non parliamo, ma questi sono le eccezioni. Lui è un professionista, certo. È il professionista che gioca con gli affetti e il cuore degli altri, come tanti professionisti del mondo, perché non c'è dubbio che lui adesso illude i rossoneri. Io, se fossi uno dei miei tantissimi amici milanisti, spero che fossi in loro, vorrei che avere da lui la soddisfazione che per esempio ha dato a noi interisti. Però è un professionista, ragazzi, lo pagano per fare i gol, lui, certo, fa i gol, non è mica un bidone. E poi e questo è il punto fondamentale, quindi questa cosa mercenaria sono sciocchezze, cioè veramente delle colossali sciocchezze. Loro forse dovrebbero ricordare, è chiaro che non può uscire fuori gridando sono stato pagato 24 milioni, ma però l'Inter me ne ha presi. Sarebbe tecnicamente più esatto prendere il microfono a San Siro e fare un po' di cifre. Però sai, siamo dei romanticoni, noi, sì, del calcio. Anche se, caro Beppe, io sono peggio di San Tommaso, perché a Ibra e Raiola che rinunciano a 4 milioni per amore non credo neanche se lo vedo. Io questo non lo so, io sono più stupito dal fatto che il Barcellona, dopo aver pagato 50 più Eto'o, stiamo parlando di Eto'o, insomma, mica una partita a Monte Carlo cambia Eto'o, Eto'o è un fuoriclasse, allora... con praticamente valutato 80-90 milioni, lo vendono a 24 dopo un anno. Quindi o gliene ha fatte talmente tante laggiù, ma non mi sembra un po' esagerato, se non c'è qualche cosa che non quadra, perché da 90 a 24 mi sembra una riduzione piuttosto brusca. Se fosse proprio così, il Milan ha fatto l'affare non del secolo, ma del millennio. Sì, anche se ieri mi ha chiamato un ascoltatore che mi ha fatto mille conti, cominciano a pagarlo tra un anno, 8 milioni l'anno, ho fatto dei conti che non ho capito, non ci ho dormito stanotte, ma tant'è, tanto non ci arrivo, mai stato bravo in vita mia in matematica. Piuttosto ieri un amico mi ha mandato un messaggio, che era questo, un SMS, il Milan vince tutto, Scudetto, Champions... elezioni anticipate. Beh, l'amico malizioso non ha tutti i torti, sono convinto che non è il motivo principale. ma sono convinto che per un leader politico che ha sempre usato il Milan un po' come è stata la grande metafora della sua carriera politica, ancora più la televisione è stato uno strumento, uno degli strumenti, ma il calcio è stata la sua grande metafora, discesa in campo, facciamo squadra, tutte queste cose. Quindi il Milan vincente degli anni di Sacchi ha coinciso con il successo politico, il primo. Non c'è dubbio che se ieri tirava una rietta di elezioni, l'aria, secondo me, oggi è diventata vento. Sì, senti Beppe, intanto aspettando l'Inter di stasera che chiude il programma della prima giornata che è stata al solito salto della quaglia o volo del tacchino, no? Un balzo e poi si riprecipita a terra, altre due settimane di sosta, cosa orrenda secondo me. Notizia di questa prima giornata da volo del tacchino è che la Juventus poveretta ricomincia da dove aveva finito, riannoda i fili con il recente passato, ti sorprende? Ma guarda, io invito i nostri ascoltatori juventino, gli interisti come me, i milanisti, a ricordare insomma che va bene, però rimaniamo degli adulti quasi tutti noi, quindi di non passare dall'euforia alla depressione nel giro di poche ore. L'Inter non è diventato un bidone perché ha sbagliato partita con l'Atletico, la Juve ha fatto degli ottimi acquisti, quante storie, di fatto si è comprata mezza nazionale, perché è così, il Milan l'abbiamo appena detto, quindi non è che se settimana prossima il Milan va un po' meno bene, allora è tutto, e invece forse i giornali, le radio, le televisioni, un pochino, anche senza volerlo, su questa ciclotimia un pochino marciamo. Secondo me la Juventus è mossa bene, certo, ha una squadra totalmente nuova, deve costruire tutto, e quindi Del Neri ha ragione, cioè non dobbiamo rincorrere l'Inter, è vero anche se rincorressero i giocatori del Bari sarebbe un po' meglio. Ascolta, a Madrid dopo lo 0-0 di Mallorca scrivono più che altro che il calcio di Mourinho, il calcio del suo Real è frustrante, ergo morale Allegri stia attento. Beh, oggi nel mio pezzo sul Corriere dico c'è poco da stare, virgola, Allegri maiuscolo, Mourinho arriverà a Milanello. Io guarda, ultimamente mi preoccupo perché ho imbroccato la partenza di Ibra, i due scudetti alla Champions, l'ho scritto e ho messo le date di quando l'avevo scritto sul Corriere, sulla Gazzetta, ho imbroccato e non era difficile, però con un anno e mezzo d'anticipo la partenza di Mourinho, io un Mourinho al Milan potrei immaginarmelo, e così chiudo da dove siamo partiti, un po' per lo stesso motivo, perché alla fine quando dico che Ibra è venuto per l'Inter, guardate che c'è uno scherzo fino a un certo punto, ma non è andato a Manchester, a Monaco di Baviera, a Parigi o a Madrid, è venuto a Milano perché l'Inter, lui vuole essere di fatto, lui ha toppato, cioè lui è andato via, io devo vincere la Coppa dei Campioni, io vi lascio, il risultato che l'abbiamo vinta senza di lui. Allora, lui cosa deve fare? Lui ha toppato, deve rifarsi e deve diventare il nostro incubo, Carlo, deve diventare la nemesi, è per quello che lui è venuto per l'Inter. Noi diciamo welcome back Zlatan boy, ci mancavi, dai. Tanto è finito anche sulla copertina di uno dei tuoi libri sull'Inter, peraltro. Sei pentito? Di cosa? Ti avevano messo in copertina? Ma neanche per sogno, ma io non ho un'altissima stima dell'equilibrio di Christian Vieri, ma gli sono molto grato per quello che ha fatto nell'Inter, e figuriamoci Ibrahimovic, senza, ci ha fatto vincere due scudetti da solo, ma stiamo scherzando? Sì, ha risposto anche a Zanetti, prima di me niente, poi sono arrivato io e avete cominciato a vincere. Zanetti poteva rispondere, se è andato via tu abbiamo vinto la Champions. Abbiamo vinto la Champions, naturalmente. Dai, che quest'anno, ma pensa anche alla tua trasmissione, mi pensiono come pubblico, come scrittore di libri nerazzurri. Ma tu vai avanti, a tempo di sport, Ma infatti mi diverto da pazzi, io sono felice. Certo. Sono felice, a tempo di sport brilla il sole, senza questi giocatori a tempo di sport sarebbe una nuvoletta e non va bene, fidati. No, Beppe, ti chiedo ancora questo, anche se ti sei pensionato, no? come scrittore sull'Inter, però fosse Il Corriere qualche volta, gli ho detto di non esagerare, però ci sono casi. I libri proprio basta, non lo dico. Quattro libri sull'Inter in 8 anni, dal disastro al trionfo, la nabasi è finita, Senofonte si ritira. Mettiti nei panni di un tifoso interista. Allora, mettiti nei panni, immagina, senza Mourinho, senza Balotelli, senza Supercoppa Europea, senza nemmeno uno sculli qualsiasi per sollevarsi un po' il morale. Adesso arriva Ibra con la maglia del Milan, il peggiore degli incubi. Un po' di nervosismo c'è? Fosse un tifoso dell'Inter? Tu hai detto più senza, io dico con uno scudetto, con la Coppa Italia, Supercoppa Italiana come quelle coppe là, anche l'altra conta un poco, ma con la Champions League, con la prospettiva di giocarsi l'Intercontinentale, con gente dentro come, noi possiamo scegliere due centravanti, ma chi mettiamo oggi a giocare punta centrale, Milito o Eto'o, scusami, va. Un terzino come Maicon, Lucio e Samuel in difesa, ma averceli, ma stiamo scherzando, va bene, l'Inter avrà un problema di pancia piena fra un anno o due, per quest'anno andiamo bene, certo se arrivasse Kuyt io sarei contento. Ah, non c'è dubbio, anche Benitez, l'ha detto anche ieri, magari in lui un po' di nervosismo si può leggere. Beppe, io ti ringrazio. È sempre un enorme piacere. 3 settimane fa non sapevamo già chi avrebbe vinto lo scudetto, era noioso. Esatto. E così invece diventa molto divertente. Comunque Ibra andrà bene al 75%. Oggi ha detto che farà più di 25 gol dopo le visite mediche. Sì, se li facesse prima delle visite mediche sarebbe veramente forte. Ciao. Ciao Beppe, grazie. Juventus è un club di one of the best in the world and questo di top. Dopo Juventus non c'è, perché Juventus io penso di ultimo. This is the last stage you can take in a career. No, questo è il calcio and io pensavo per il mio futuro adesso qua and mi dispiace per loro e anche di squadra we had last year because di squadra non è piccola squadra, una grande squadra come Inter adesso. Mi dispiace che sono andato via, però sono più contento e per giocare in Barcellona e voglio dimostrare qua che quello che ho fatto in Inter e voglio crescere ancora, però tutti, ringrazio veramente tutti. Ciao a tutti, ricordati sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie! Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic! Ripeto, non ci scommetterei nemmeno la casa di Franco Piantaneda, che ringrazio l'autore di questo montaggio, e nemmeno quella di Fabio Cantadore in regia, che pure ha già la maglietta di Ibrahimovic. Perdonatemi, ma abbiamo voglia di scherzare un po'. Tanto è appena iniziato, ma ci fermiamo subito per la nazionale, quindi avremo modo anche di fare i seri magari nel corso della stagione. 8-0-0-24-0-0-24. Adesso voglio sentire le vostre di considerazione insieme a un po' di voci di ieri. Intanto, sempre a proposito di ex milanisti, ma e anche ex interisti e anche ex juventini, Alberto Zaccheroni è ufficialmente il nuovo CT del Giappone. In bocca al lupo, vecchio Zac, naturalmente. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, mi perdoni se disturbo. Ma non disturba affatto. Il suo parere è semplicissimo. A parte, vabbè, sono contento che sia arrivato Ibra. Condivido che il fatto che sia un giocatore, poi le lasciamo perdere il cuore. Ma io ieri sera ho visto entrare negli spogliatoi le telecamere. Trovo la cosa patetica e un po' penosa. Lei cosa ne pensa? Senza ma offesa, penso, no, la sua opinione. Ma senza offesa la penso come lei, nel senso che non mi fa né caldo né freddo, non penso che aggiunga nulla. Questo vizio di frugare sotto le corna del calcio, insomma, di scoprire il mai visto, è stata una novità molto strombazzata, ma penso che non aggiunga niente di così importante al di là di questo voyeurismo, di questo guardonismo che è imperante, non aggiunge nulla, anche perché i giocatori, insomma, li abbiamo visti ieri, sono lì, vedono la telecamera accesa, stanno lì seduti ascoltando la musica nelle loro cuffiette, poi va via la telecamera e si cambiano, vanno in campo, punto e basta. L'unica cosa mi sembra abbastanza interessante, la detta Boban, potrebbe essere più così curioso capire e vedere come reagiscono, com'è lo spogliatoio prima di una grande partita. Quello sì, magari legge il nervosismo sulle facce dei giocatori mentre si cambiano, ma siamo sempre alle spigolature e ai dettagli. Non mi sembra che questa novità abbia seriamente aggiunto qualcosa di imperdibile allo spettacolo televisivo del calcio, quindi questo è quanto, insomma. Marco da Napoli, buongiorno. Marco, buongiorno. Dica. Volevo dire. Voleva dire, magari me lo dice, in un prossimo futuro, proviamo a ricostruire la linea. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, ora tocca ad Aldo da Siena, ma anche i messaggi 349 238 6666, ce ne sono molti. C'è anche chi scrive che Ibra è un bluff e il Milan una bolla che finirà prima di iniziare. Francesco di Verona, non credo. credo che Ibrahimovic sia un giocatore non Ronaldinho, insomma, non un giocatore, e qui so che siamo in disaccordo con molti ascoltatori e che dopo la partita di ieri sera la mia posizione rischia di essere ancora più minoritaria, però Ronaldinho, così come Rivaldo, arrivati entrambi, guarda caso, dal Barcellona, come Ibrahimovic, segno di un'asse privilegiata, evidentemente, tra il Barça e Milanello. Ibrahimovic è tutt'altro che un giocatore a fine carriera, o comunque in parabola declinante, come è Ronaldinho, al di là della strepitosa partita che ha fatto ieri sera con il Lecce. Una partita nella quale comunque Ibrahimovic è stato in campo, perché basta guardare l'atteggiamento del Milan, si vedeva che era una squadra che con questo acquisto ha ripreso fiducia nella dirigenza prima di tutto e nei suoi compiti, che sono quelli di provare a vincere qualcosa. Sul fronte europeo io non credo che il Milan sia competitivo anche con l'arrivo di Ibrahimovic. Sul fronte interno, nonostante quanto dice Beppe Severgnini, con un po' di nervosismo serpeggiante nell'Inter, magari sì, magari il Milan può essere un competitor di livello per l'Inter, che stasera vedremo a Bologna, che aspetta nuovi acquisti, non so se arriveranno nelle prossime ore, che sono le ultime del mercato. Secondo me è così, insomma. Marco da Napoli è tornato, vediamo se in pianta stabile. Giuseppe, allora, volevo dire, diciamo, in merito al fatto di Ibrahimovic, che lo speaker del Fantira dice pure rosso-nero, mi sembra proprio una cosa, una presa in giro pazzesca. Vabbè che noi tifosi siamo un po' etichettati come la gente che a livello cerebrale non è che siamo proprio il massimo. Ma no, però, ma non si butti giù. No, perché voglio dire un'altra cosa. È impossibile questo fatto di Ibrahimovic. Ho sentito su Sky, su Mediaset, sulla RAI, 30 sì. milioni più di tu, 40 milioni più di tu, 50 milioni più di tu. Nessuno dice mai una cosa vera. Cioè, sentiamo quasi gente che magari tutto quello che raccontano noi ne dobbiamo vedere. Ti assicuro, io vengo registrato a casa. 30 milioni più e tu, 40 milioni più e tu. Ma sono secondo le cifre ufficiali, sono 49 più e tu. Questi termini dell'acquisto concluso 12 mesi fa, dell'operazione conclusa 12 mesi fa tra l'Inter e Barcellona. 49 più Eto'o, adesso 24 pagabili in tre rate, da 8 milioni in una, a partire non da quest'anno ma dall'anno prossimo, e mi sembra sia un discreto affare, che ne dite, dal punto di vista economico per il Milan, anche se quando parliamo di giocatori di questo livello ciò che rileva non è tanto il costo del, per comodità, cartellino, anche se non esiste più, quanto ciò che dovrà essere versato nelle tasche del giocatore. Ad esempio il Barcellona si è liberato da un impegno contrattuale di una sessantina di milioni di euro all'ordo, erano 12 netti quelli che Ibrahimovic prendeva, con il trattamento fiscale che c'è in Spagna sono 15 all'anno sganciati dal Barcellona, quindi aveva un peso di 60 milioni di cui si è liberato il Barça. Aldo da Siena, eccoci. Buonasera dottor Genta. Buonasera. Allora, io la stimo moltissimo, sia come uomo che come giornalista. Una volta ho parlato con lei di basket, che è un'enciclopedia. Addirittura. Però, sì. Dica. Allora, le ripeto, come le dissi l'anno passato, per favore parli di basket, perché di calcio. Lei continua a dire Ronaldinho è finito. Questo ci fa neri. È un fenomeno, questo è un fenomeno. Sì. Ora, a prescindere che prenda tanti soldi, tanto non glieli si danno noi, quindi questo è un grande giocatore, questo vale il prezzo del biglietto. E poi volevo rispondere a quel signore di prima che non mi sfugge il nome, carani, Beppe Severgnini. Ecco, Beppe Severgnini. Questo signore, su per giù, ho visto una foto una cinquantina d'anni circa, va bene. Questo signore ha goduto calcisticamente gli ultimi due o tre anni della sua vita. Sì. Ma voglio dire, ma i tifosi milanisti come me hanno goduto per 20 anni, dall'88 al 2007. Non c'è dubbio. Ma che cosa è successo a uno come questo signore, un nome? Ma guardi, sono... Questo sarebbe morto dalla goduria. Sono queste ma l'avrà anche vista, Aldo, l'avrà anche vista mille volte, anche quando l'Inter andava male tiravano i motorini dal terzo anello, l'avrà vista mille volte, insomma. Ma insomma, è chiaro che queste sono schermaglie tra tifosi. Quanto a Ronaldinho, io non ho dubbi sul fatto che sia divertente vederlo fare l'elastico e poi la rabona sul 3-0 con il Lecce. Io voglio vedere Ronaldinho, voglio vedere se Ronaldinho riesce a recuperare una condizione fisica che non gli vedo più da 4 anni, semplicemente questo, perché è chiaro che Ronaldinho ha 2 piedi che non ha nessuno al mondo, no? Però la differenza la fa il raggio d'azione, che ieri era sui 30 metri di corsa, l'anno scorso molti meno, e la velocità di esecuzione, perché era la supersonica velocità di esecuzione del Ronaldinho da pallone d'oro a farne il giocatore più forte del mondo. È chiaro che molto dipende da questo, sul fatto che Ronaldinho sia una delizia assoluta per gli occhi, se lo lasciano giocare, vabbè, siamo tutti d'accordo, credo, sull'intero pianeta. Nico da Bari, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sulla partita Bari-Juve. Sì. Sul discorso della Juve che facevate, ma io non vorrei sminuire comunque il Bari e la bravura del tecnico soprattutto. Sì. Sembra che... E poi niente, da interista volevo mi piacerebbe vedere il prossimo derby Materazzi che marca il bravo Ibra. Tutto qua. Sì, tutto qua. Già non è poco, già non è poco, grazie Nico. Beh, il Bari, insomma, ieri ha giocato una partita meravigliosa. Anche lì, insomma, continuità rispetto, di segno opposto naturalmente rispetto allo scorso campionato, continuità di segno opposto rispetto alla Juventus, come ovvio. Bari mi dà l'idea di una squadra che gioca a memoria. Ventura ha cambiato qualche pedina, ma poi non tantissime. È chiaro che l'anno scorso aveva Bonucci e Ranocchia che hanno fatto un campionato pazzesco. Ranocchia fino a quando non ha fatto crack. Vediamo se il Bari riesce a rivitalizzare qualche altro vecchio giocatore, come è successo con Donati che ieri ha fatto un gol da cinema, e con molti altri. Insomma, è chiaro che il Bari gioca molto bene, gioca a memoria, corre, e in questo momento della stagione, esattamente come è capitato l'anno passato, ciò fa tutta la differenza del mondo. Vi do un paio di notizie al volo, appena battute dalle agenzie. Innanzitutto il Napoli ha perfezionato l'acquisto del centrocampista argentino José Ernesto Sousa, lo ha comunicato lo stesso Bayern Monaco. Contratto a titolo definitivo, passaggio a titolo definitivo e contratto di 4 anni per lui. E poi c'è nazionale a rischio per Cassano che ieri ha preso una botta alla schiena, tanto che a un certo punto sembrava avesse chiesto il cambio a Di Carlo, invece poi è rimasto in campo, ha anche segnato il gol che ha sbloccato la partita su rigore. Però niente Cassano a Coverciano, almeno per il momento, perché è rimasto a Genova in via precauzionale. Il medico nazionale professor Castellacci si è sentito con il suo collega della Sampdoria ed è stato deciso di evitare al giocatore il fastidio del viaggio a Firenze, quindi sarà sottoposto oggi a un controllo medico a Genova e si valuteranno poi le sue condizioni per decidere quando si potrà unire al gruppo di Prandelli, e se si potrà unire al gruppo di Prandelli, perché un altro neoazzurro, in questo caso Castaldello, Doriano, ha detto di aver visto Cassano proprio giù ieri, faceva fatica a stare in piedi dopo la partita, a camminare, quindi speriamo che ci sia. Già non ci sarà Balotelli nella coppia offensiva che ha aperto l'era di Cesare Prandelli in azzurro. Dunque, dove eravamo rimasti? Marco dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno, dica. Innanzitutto complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Io volevo allargare un attimino lo zoom sul discorso Ibrahimovic, no? Cioè, riconoscendo l'immenso valore del calciatore, soprattutto in Italia, io però penso che sia stata un'ulteriore schiaffa ai settori giovanili italiani, perché oggettivamente il Milan, come tante altre società, hanno spesso e volentieri criticato l'Inter per l'acquisto di stranieri continuo, ma vedo che anche le altre società si adeguano. Secondo me, oltre a un discorso di marketing, è un acquisto anche un pochino politico per il nostro Premier, che magari vicinanza alle elezioni doveva fare questo, un colpo per questo si è detto, le ha messo insieme molte cose, insomma, schiaffo settore giovanili non direi, perché quando si tratta di fuori classe, ripeto, stiamo parlando di calcio al massimo livello, di professionismo al massimo livello, e non si può certo criticare l'acquisto di un grande giocatore come Zlatan Ibrahimovic. Poi aspettiamo tutti insieme in coro che ci sia qualche italiano in grado di arrivare al livello di Zlatan Ibrahimovic, allora saremo tutti molto più felici. Al momento non è così, è uno dei più forti giocatori del mondo, su questo non ho dubbi. Tanto che per rispondere a molti altri SMS basta criticare Ronaldinho eccetera eccetera, io, un ascoltatore scrive, l'ultimo grande fuoriclasse del nostro campionato, ecco, io se devo vincere prendo Ibrahimovic e non prendo Ronaldinho, su questo non ho dubbi. Sì, quanto al resto, mosse politiche, mosse elettorali eccetera eccetera, però ciò che mi preme notare, al di là di tutte queste supposizioni, perché tali sono allo stato dell'arte, ciò che vorrei sottolineare è che c'è stato, e questo è nei fatti, una inversione di tendenza rispetto alla politica societaria che era stata deliberata e perseguita negli ultimi anni al Milan, perché l'acquisto di Ibrahimovic vuole anche dire che il Milan intende ritornare immediatamente competitivo. Restiamo in Liguria dopo la Spezia Genova. Fabio, buongiorno. Buongiorno, brutte nuove quelle che mi avete dato come tifoso sandoriano. Vabbè, faremo di necessità del tutto. No, ma niente di grave, Sì, niente vabbè, di grave, una botta, secondo me va anche in nazionale. Anche se appunto Castaldello dice, ieri sera ho visto Cassano proprio giù, ha preso una brutta botta, faceva fatica a stare in piedi. Due massaggi ed è pronto. È il destino dei giocatori simbolo che vengono bersagliati e tenuti sott'occhio dai difensori con un occhio particolare. Comunque, io volevo chiedere un suo parere riguardo delle trasmissioni, principali trasmissioni televisive, sportive, serali, e quindi mi riferisco alla Domenica Sportiva e poi a quella su Mediaset, ma soprattutto sulla Domenica Sportiva, perché noi siamo abbonati Rai e pretenderemo un trattamento adeguato per tutti. Innanzitutto una chiosa, mi sono stufato di sentire parlare di Sampdoria e di Genova come squadre provinciali. Rappresentano la realtà di una città di circa 900.000 abitanti, per cui sì, sarei grato a tutti i commentatori se la piantassero una volta per tutte di trattare Genova come una provinciale, con tutto il rispetto per le provinciali, anche per la storia recente non di queste due squadre. E su questo ha ragione da vendere. Seconda cosa, non vedo per quale motivo io, pur essendo tifoso della Sampdoria, che viene considerata squadra di seconda fascia, a torto o a ragione, debba aspettare un'ora spaventosa alla sera per poter assistere a 30 secondi di commento televisivo e di filmato sulla mia squadra. Pur ritenendo Juventus, Milan, Inter e Roma squadre importanti, non vedo per quale motivo si debba aspettare, sia per, io parlo della Sampdoria ma potrebbe essere estesa ad altre formazioni, sì, sì, o anche sì, a, amanti di altri sport, ad arrivare a letto alle 2, 2:30, perché prima si deve parlare sempre del nulla con 4, 5, 6 opinionisti che dicono esattamente le stesse cose, perché poi si parla del fritto più o meno. Sì. Questo è quello che volevo chiedere, grazie. No, ma più che chiedere, Fabio, che cosa vuole che le risponda? Non ho voce in capitolo nella compilazione della scaletta della Domenica Sportiva, ci mancherebbe altro, è semplicemente una sua considerazione che lascio lì a chi può effettivamente dare una soluzione, una risposta a questo quesito. Certo, è una questione molto risalente nel tempo, perché ricordo che ancora 10-15 anni fa si diceva, ma perché prima non mi fanno vedere i gol e poi si mettono a chiacchierare, così io, se non voglio sentire le chiacchiere, voglio solo vedere i gol, me li guardo in santa pace. Non esiste una risposta in realtà su questo, semplicemente una considerazione. Certo è che a quell'ora il ragionamento che si fa nell'era delle telecamere negli spogliatoi è questo: a quell'ora i gol li hanno visti tutti, le partite le hanno viste, o quantomeno hanno visto le sintesi eccetera eccetera, tutto è già visto, già passato, è quasi già vecchio. Però sono d'accordo sul fatto che se io aprirei sempre con i gol, tutti i gol uno dietro l'altro, tutti i servizi uno dietro l'altro, e poi si comincia a parlare, magari si fa anche vedere quel pallone rimbalzato sulla linea di ieri sera, no? In Fiorentina-Napoli. Sentiamo cosa ha detto Mihajlovic. Al di là del risultato sono soddisfatto, perché ho avuto risposte, quelle che volevo. Gli ho chiesto ai giocatori, giocatori con personalità, metterci qualità dentro, entrare in campo con una squadra che vuole vincere a tutti i costi, che non molla mai, che combatte, e penso che hanno fatto il massimo. Mi dispiace per il risultato, però sono contento della prestazione. No, il primo l'arbitraggio gol, non mi fate chiedere, perché non voglio commentare nulla. Non voglio dire nulla né dell'arbitraggio, né del gol, né dell'espulsione, niente. Hanno sbagliato, lo sanno anche loro, e va bene così. Tanto benedetto sia Ibra, perché se non c'era lui parlavamo di questo oggi tutto il giorno e magari anche domani. Mentre così non è. Ivan da Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. A proposito di Ibra. Sì. Premesso che posso considerarmi un addetto ai lavori, lavorando nel marketing e nel commerciale sportivo. Sì. Mi piacerebbe puntualizzare che a fronte di questo trasferimento, tanto chiacchierato, eccetera, prevalgono logiche evidentemente e soprattutto commerciali e di marketing e politiche, dove l'aspetto tecnico, pur essendo, per l'amor di Dio, non faccio il tifo per nessuno, pur essendo ben presente, passa assolutamente in secondo ordine. Ci ha guadagnato il Barça, si è sbolognato da un corpo estraneo, e questo va detto, e da emolumenti pesantissimi. Ci guadagna il Milan, che aveva bisogno di rifarsi la faccia. Ci guadagna il giocatore, come al solito, che si muove come una banderuola e le dichiarazioni lo dimostrano. Gli unici che non ci guadagnano, forse è un guadagno abbastanza lontano, sono quei poveretti che vanno allo stadio, cacciano i soldi e contenti tutti. Ecco, una considerazione molto, se vuole, cinica, ma realistica. Ma almeno, insomma, Ivan, fino a un certo punto, perché stiamo parlando comunque di un giocatore, ad esempio, che almeno dal mio punto di vista, uno dei pochi che mi diverto a vedere giocare, giocatore che, al di là di farti vincere gli scudetti, giocatore top a livello mondiale, è un giocatore che vale il prezzo del biglietto, perché è bello veder giocare Ibrahimovic. Sono molto contento che sia tornato nel campionato italiano. Non lo ridurrei, come fa lei, semplicemente a un discorso di marketing. È chiaro che anche questo ha la sua componente, non c'è dubbio. Ad esempio, vedrete che adesso, dal minimo storico, gli abbonamenti del Milan, da quei 20.000 e poco che sono ora, lieviteranno, eccetera eccetera, merchandising, magliette, tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è intorno avrà una bella botta. Però non lo ridurrei, Ivan, trattandosi di Ibrahimovic, semplicemente a un discorso di marketing. Soprattutto, secondo me, è una questione di punti di vista, ovviamente rispetto le opinioni altrui, le sue in particolare, e anche quelle altre, però io francamente, ripeto, non sono tifoso, non tifo per squadre, mi piace il calcio nella sua essenza, però le cose vanno dette come stanno, il resto sono favole. Vabbè, comunque lei da professionista del settore fa giustamente le sue considerazioni. Io aggiungo anche il versante calcistico, e se insomma parliamo dell'ultimo Rivaldo, se parliamo del ritorno di Ronaldo con la permanente, come vi ricordate, in maglia rossonera, allora quelle sono considerazioni che con il marketing hanno molto a che fare, in maniera molto stretta. Se parliamo di Ibrahimovic, c'è anche una componente tecnica che, non, a mio parere, non può essere trascurata. Michele da Bari, buongiorno. Buongiorno. Io sottoscrivo in pieno, devo oserei dire quasi in bianco, il contenuto della telefonata precedente, ma due prima. Parlavano delle squadre trascurate dall'emittente nazionale. Io all'ascoltatore di prima, e quasi quasi che lui è un fortunato, perché ricordo 2 anni fa il Bari di Conte in Serie B, c'erano addirittura dei momenti in cui il conduttore della Rai di 90° minuto della Serie B, ora non ricordo il cognome, sabato, o non faceva vedere i filmati del Bari, o parlava del Bari come una squadra che stava per retrocedere. Comunque chiudiamo qui il discorso, polemica chiusa. È un andazzo che va avanti un sacco di tempo. Io voglio vedere quando Inter, Milan, Juventus e altre non giocheranno più, come già stanno facendo, chi andremo a vedere. Probabilmente vedremo i filmati della Serie C, visto che senso non giocheranno più, Michele? No, non giocheranno più nel senso che non esprimeranno più un gioco accettabile, in questo senso. Di quando non ci sarà più da commentare il gioco di queste squadre, voglio vedere chi dovremo andare a commentare. Sarà obbligatorio commentare il Genoa, la Sampdoria, sì, e il Bari. Però Michele, quanto dice può avere un fondo di verità. Naturalmente queste lamentele possono arrivare da tutti quanti, no? Sotto Milan, Inter e Juventus, magari un po' di Roma. In giù possono essere lamentele riguardano tutti quanti. L'equivoco è questo. Non è che il passaggio televisivo aumenti il prestigio della squadra, o aumenti la spettacolarità della squadra, o aumenti il valore, l'importanza della squadra. Non sopravvalutiamo la televisione. Non è che per essere belli bravi bisogna passare in televisione, non è così che funziona. Bari gioca benissimo. I baresi possono, hanno la fortuna di andare al San Nicola, che peraltro spesso è è mezzo vuoto o più di metà o più di mezzo vuoto, e hanno la possibilità di andarsi a vedere questa squadra che gioca in un modo splendido ormai da diverse stagioni. Dunque, che la facciano vedere poi in TV, non la facciano vedere, voi avete la fortuna di andarvi a vedere una squadra divertente, fatelo, punto e basta. Non... poi se non si vede in TV saranno problemi di tutti gli altri, no? Che non hanno visto il Bari, che ieri, ripeto, ha giocato una partita bellissima anche esteticamente. Adesso vorrei aprire, come ogni giorno in quest'estate, ma ce n'è ben donde, direi, parentesi motoristica. Eni vi presenta Sport e Motori. Poi torniamo, se ci avanza tempo, a parlare di calcio con gli ascoltatori. Abbiamo comunque anche tutta la puntata di domani, che insomma saremo lì a guardare le agenzie di mercato, no? C'è chi dice, scrive, che oggi stesso il Milan potrebbe annunciare il colpo ventilato nella notte, Robinho, altro acquisto non so per fare che cosa, in tutta onestà. Però questo desiderio, quest'altro desiderio ha espresso Berlusconi, quindi vedremo. Intanto Mario Poltroneri, buongiorno. Buongiorno a te Carlo, buongiorno. Ciao a tutti. Ieri ci eravamo lasciati con le macchine, oggi aprirei con le moto, caro Mario, nella notte di Indianapolis. Pedrosa davanti a Ben Spies, che va vicino al primo successo di una carriera in cui di successi secondo me ne centrerà parecchi, perché è un pilota che a me piace molto. Vince Pedrosa, Valentino Rossi quarto, dopo aver visto, non mi ricordo più se la Madonna o qualche altro santo che gli ha intimato di rallentare. Sì, beh, effettivamente direi una corsa interessante, perché Pedrosa ha voluto ribadire la sua superiorità su determinati tipi di circuito fino a quando non ha avversari fortissimi a ridosso. È riuscito ad aggiungere Spies, il quale comunque, come tu dici, è sicuramente un grande campione, e come suggeriva Valentino ieri dopo la corsa, forse Lorenzo dovrà mettere un muro nello stand di Yamaha, perché questo Spies va troppo forte. Sì. E infatti è arrivato davanti a Lorenzo. Sì. Quindi direi che ormai si ragiona nell'ottica dell'anno venturo, perché i punteggi sono troppo forti a favore di Lorenzo, che certo, è 251 punti contro 183 di Pedrosa e 126 di Dovizioso. Che sto apprezzando come gestore, peraltro, Lorenzo, in una veste inedita per lui. Sì, sì, sì, sì. E teniamo poi presente, sì, c'è un'atmosfera comunque difficile. Difficile perché Valentino, a mio modo di vedere, subisce l'abbandono delle Yamaha, nel senso che hanno preferito il 22enne al 31enne e lui tutto sommato non è uno che sopporta come temperamento queste situazioni, quindi cerca di reagire, ma deve aspettare di vedere cosa potrà fare con la Ducati. Stoner, che ha già nella testa la Honda, sta facendo anche questa volta una stagione piuttosto scarsa, indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche delle moto. Quindi tutto sommato è venuto fuori effettivamente Pedrosa nella gara di ieri, una gara su un circuito però un po' particolare, un susseguirsi di curve con dei rettili, due rettilinei brevi, quindi non proprio adatta per consentire l'espressione completa delle possibilità delle moto, ecco. Mentre Valentino, con un altro tracciato più veloce, forse riusciva a venire più avanti. Mentre per la cronaca è San Pietro ad essergli apparso, gara troppo dura per me, mi è apparso San Pietro rallentato, queste per la cronaca naturalmente, le dichiarazioni di Valentino Rossi. Sentiamo anche un ascoltatore insieme, Mario. Vincenzo, sì, da Ferrara, buongiorno. Volevo dire questo piuttosto: io ho visto la Ferrari ieri e sono rimasto un po' deluso del comportamento soprattutto di Felipe Massa, diciamo che secondo me si è accontentato molto della quarta posizione, mi è dispiaciuto per Alonso, ma secondo me in Ferrari devono cambiare anche il direttore sportivo, era un direttore sportivo un po' più cattivo, diciamo così, magari un briatore, qualcosa del genere. Ascolta per radio, saluto, sì. Arrivederci. Vincenzo, grazie, giro al professor Poltroneri. Grazie per il professore, allora diciamo subito che molte volte si parla, soprattutto in difesa della Ferrari, di sfortuna. Per Alonso bisogna dire che effettivamente questa volta la sfortuna l'ha avuto, perché Barrichello lo ha centrato perché lui stava percorrendo correttamente il nastro d'asfalto della pista, mentre la maggior parte degli altri concorrenti era passata larga e aveva praticamente saltato la curva. Quindi ci sarebbe stato anche da questionare dal punto di vista regolamentare. Però la sostanza è che lui, con la botta che gli ha dato ovviamente Barrichello, ha dovuto fermarsi ai box e la sua corsa è stata completamente falsata. È vero che partiva dalla decima posizione, è vero che i risultati del venerdì non siano poi confermati sabato, e tutti lo criticavano perché dicevano che aveva ottenuto solo il decimo tempo, mentre Hamilton era arrivato al secondo posto partendo nello stesso momento con lo stesso tipo di terreno e con lo stesso tipo di gomme e di consumo delle stesse. Non lo so, certo io da Alonso mi aspettavo di più, e quando ha cominciato l'inseguimento però ha dato la sensazione di essere piuttosto nervoso, e sotto questo profilo si giustifica anche l'uscita di strada che poi l'ha tolto dalla gara. Quanto al però, muretto Ferrari, gara, Mario, quanto al muretto Ferrari che l'ascoltatore vorrebbe più cattivo? Dunque, qui secondo me bisogna chiarirsi una volta per tutte una cosa. Noi siamo tendenzialmente portati a difendere la Ferrari e dire che la Ferrari è la migliore del mondo, poi ci ricreiamo lunedì. La sostanza è che bisogna vedere realmente le prestazioni delle vetture, perché se le vetture non ci sono, non c'è barba di campione che riesce a vincere. Ora, discutere Alonso è piuttosto difficile, anche se ieri ha fatto una gara non felicissima. Ma è chiaro che la Ferrari di ieri non era una Ferrari vincente. Ogni gara, purtroppo, noi stiamo vedendo che si dice che la Ferrari ha fatto dei progressi e dovrebbe vincere, e questa era una delle corse che era favorevole, poi in realtà c'è qualcuno che va un po' meglio. Adesso è stata la volta della McLaren, che tra l'altro si presenterà a Monza, altro circuito favorevole alla Ferrari, col pronostico sì. a favore. Sì, sì, sì. La Ferrari potrebbe giocare sul secondo posto con la Red Bull, che invece a Monza non dovrebbe andare benissimo, sempre nelle retroguardie alla Mercedes. Quindi il campionato, e poi parliamo di domenicali, il campionato secondo me ha avuto una svolta importante, perché adesso noi abbiamo Hamilton che ha riscavalcato Webber, ma tra i due ci sono solo tre punti, 182 a 179, poi ce ne sono 31, 35 e 41 per gli inseguitori e potenziali campioni Vettel, Button e Alonso, se riusciranno nelle prossime sei gare a conquistare. Io credo che sarà piuttosto difficile da quello che stiamo vedendo. Sì. Quanto domenicali, ci sono due considerazioni da fare. Uno, quando la Ferrari ha sciolto il grande team dove c'era Schumacher, Ross Brown, eccetera, eccetera, ricostruire una squadra con nuovi piloti è molto difficile. Quindi Domenicali forse può fare ogni tanto qualche errore, ma non è che è il colpevole unico, sì. È tutta la squadra che ne risente. E poi, come dico, noi pretendiamo a tutti i costi che la Ferrari sia la migliore e dovrebbe vincere. No, non è vero. La Ferrari sta facendo una stagione onesta, migliore di quella dello scorso anno, ma non ha ancora raggiunto quella prestazione che consente agli altri, e cioè ai piloti più forti, di arrivare davanti, sì, perché certo. Non dimentichiamoci che il mitico Schumi, che ha vinto sei volte su questo tracciato, che è un tracciato per veri campioni, ha fatto una pessima figura. Sì. La solita pessima figura. Quanto alla Ferrari, mi sembra un po' la Juventus, no? Dopo i trionfi, dopo stagioni amare, adesso deve ricostruire, però si ricomincia dalle basi. L'importante è che parallelamente alla Juventus ci sia un disegno di crescita, cosa che mi sembra comunque di vedere. Mario, ti ringrazio, torniamo a parlarne nei prossimi giorni. Arrivederci. Alla prossima. Ciao. Grazie a Mario Poltronieri, con cui chiudiamo il programma. Io ringrazio Franco Piantanida per il lavoro in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ci ritroviamo domani, ultimo giorno di mercato, alle ore 14.